Il punto di Stefano Folli. La domanda che tutti si pongono è: cosa accadrà alla maggioranza e quindi al governo se oggi Berlusconi sarà condannato al processo Ruby? La risposta è tecnicamente niente, perché si tratta di una sentenza di primo grado, nonostante la gravità delle imputazioni. Dunque il processo sarà ancora lungo nei suoi passaggi e il vero snodo ai fini politici sarà semmai la decisione finale della Cassazione su Mediaset, attesa entro l'anno. Quella sì avrà un impatto immediato sul governo, ma la sentenza di oggi, pur con i suoi risvolti morali, con gli interrogativi che pone, non farà saltare la maggioranza. Si limiterà a mettere in evidenza le contraddizioni interne della grande coalizione all'italiana, a stressare tutte le tensioni, a rendere ancora più estenuante il lavoro di mediazione a cui il premier Letta è costretto ogni giorno. Ma è una condizione obbligata pur nella sua evidente debolezza e lo sarà ancora a lungo.